radio2pod.rai.it. Marinai, profeti e balene. Un programma di Vinicio Capossela a cura di Gerardo Panno. Regia di Andrea Cacciagrano. Gli empi si alzeranno con gli occhi sporchi di sonno, inturbiditi, penseranno di sognare, ma si dovranno pizzicare per comprendere che è vero, che è l'ora in cui la nave sta arrivando. E allora mani alzate verranno incontro a che chiedete, ma urleremo i vostri giorni, già sono contati. E il mare si richiuderà sul faraone e le sue genti, essi come Golia saranno vinti. Buonasera a tutti e ben sintonizzati. Questa sera la nostra pillola marinaresca tratterà di rock biblico, la versione che abbiamo appena ascoltato. Radio2pod.rai.it. Marinai, profeti e balene. Un programma di Vinicio Capossela a cura di Gerardo Panno. Regia di Andrea Cacciagrano. Gli empi si alzeranno con gli occhi sporchi di sonno, inturbiditi, penseranno di sognare, ma si dovranno pizzicare per comprendere che è vero, che è l'ora in cui la nave sta arrivando. E allora mani alzate verranno incontro a che chiedete, ma urleremo i vostri giorni, già sono contati. E il mare si richiuderà sul faraone e le sue genti, essi come Golia saranno vinti. Buonasera a tutti e ben sintonizzati. Questa sera la nostra pillola marinaresca tratterà di rock biblico. La versione che abbiamo appena ascoltato è tratta dalla canzone di Dylan When the Ship Comes In, che paragona l'arrivo di una nave all'arrivo della rivoluzione, del trionfo della giustizia sui nemici, sugli empi, e invoca nel finale l'episodio biblico del faraone e le sue genti inghiottite dalla richiusura del Mar Rosso. Essi, dice, come Golia saranno vinti, a conferma che la Bibbia è uno dei testi più citati del rock and roll. Humus, Adam, uomo. La Bibbia è il libro che meglio ti dice che sei fatto di terra, che non sei che terra impastata con un poco di sputo divino. E del divino c'è solo lo sputo di questo Dio creatore che, dopo aver parlato per bocca dei profeti, tace da secoli. Dove eri tu quando io creavo il mondo? Non si può conoscere l'azione di Dio e non la si può comprendere perché è abnorme. Enormità, disparità, è così fuori misura che deve mostrare un altro fuori misura, il Leviatano, a simbolo della sua potenza. È sempre un problema di misura. Abbiamo la possibilità di sapere che esiste l'infinito, ma non possiamo immaginarlo. È un problema di misura, del nostro essere sotto misura. Nella Bibbia, almeno, piena di potenti visioni, violente metafore e ammutinati al silenzio di Dio. Il libro di Giobbe, nella vertiginosa traduzione di Guido Ceronetti, dà voce a un lamento senza riparo. Scrive Sergio Quinzio: nel terrore assoluto di Giobbe, Job, devoto, giusto, crollano le regole sacre che cercano di giustificare il dolore con sottili e tragici equilibri di responsabilità, di espiazioni e di perdoni. Di fronte al grido di Giobbe, tutto quello che la tradizione sacra può dire per lodare la giustizia e la misericordia di Dio, oppure l'ineffabilità della sua misteriosa sapienza, è vaniloquio. Ieri come oggi, le formule con le quali si tenta di giustificare Dio e insieme di consolare l'uomo sono tristi menzogne. Giobbe non vuole essere consolato. Un uomo era in terra di Uz. E a Job rispose da un vortice il Signore: Prendi le armi come un guerriero. Io stesso ti onorerò se la tua destra ti avrà salvato. Guarda la potenza dell'opera di Dio. Lo prenderai con l'amo il Leviatano, gli legherai la lingua con la fune, gli trafiggi le nari con l'anello, gli sfondi le ganasce con l'arpione, lo sottometti con un contratto, le mani mettigli addosso, ti passerà la voglia di lottare. Dai suoi denti esce spavento, il suo sternuto è una fonte di luce, i suoi occhi sono le palpebre dell'aurora, escono fiaccole dalla sua bocca, fa ribollire come caldaia il fondo degli abissi, ne fa un vaso d'unguenti. Sulla terra non ha signore, creatura senza paura, di tutto quello che è alto gode, su tutti i figli della ferocia è re. E se la balena è la potenza di Dio, così come viene mostrata a Job, Acab, come Ulisse, vuole mangiare la mela della conoscenza, sconfiggere la potenza di Dio, e forse per questo Moby Dick termina con la citazione del libro di Giobbe: e io soltanto mi sono salvato per potervelo raccontare. Si ringrazia per la parte tecnica Maria Rita Franceschini, Pino Berardi e Sassà Bellistri. Radio2pod.rai.it